è tutta la gente è assopita sulla sabbia bruciata dal sole. Ci scambiamo nell'acqua salata un dolcissimo bacio d'amor. Un po' di tutto, un po' di più, con Francesco Puglisi. Slalom. Flashback. Make a one man weep, make another man sing.

Slalom. Flashback. Continuiamo a parlare di notizie che arrivano dal mondo del gossip. Martina Colombari e Luca Marini, che hanno fatto coppia all'interno del programma Baila, che è stato chiuso anticipatamente per gli scarsi risultati ottenuti dagli ascoltatori, ha dichiarato Martina Colombari inizialmente di avere delle difficoltà. Che cos'ero intorno a 20 anni? Un manicomio sul letto di danni, sogni sciatti, notti di festa, tiravo sassi alla tua finestra. Ma cosa hai visto in questo qui? E quella cosa è ancora

se invece fosse il solo senso di essere qui, l'unica ragione per cui valga la pena di fare tutto il viaggio e comprendere quello che comunemente noi chiamiamo amore. E se fosse l'unico motivo che c'è, il significato ultimo per cui vivere, fino in fondo il viaggio e comprendere quello che comunemente noi chiamiamo amore. Hey, don't care, I'll always be with you. Don't care, we can all see the truth. But there's one thing I have to say, don't worry about yesterday. Yes, I'll be your man, you better understand. And I promise that my love you can't forget. Cause hey, this is my time, love will never die, yeah. E se invece fosse il solo senso di essere qui, l'unica ragione per cui valga la pena di fare tutto il viaggio e comprendere quello che comunemente noi chiamiamo amore. E se fosse l'unico motivo che c'è, il significato ultimo per cui vivere, fino in fondo il viaggio e comprendere quello che comunemente noi chiamiamo amore. Allora, siamo in diretta da Cefalù, questa è Slalom, una trasmissione che vi tiene compagnia ogni giorno dalle 9.30 alle 13, e oggi abbiamo in diretta da San Giuseppe Jato, quindi dalla Casa Vinicola Alto Belice, il nostro enologo, il dottor Abate, che ringraziamo innanzitutto per aver accettato la nostra richiesta di informazioni per quanto riguarda la produzione di vino di quest'anno. Buongiorno dottore, ed innanzitutto la ringraziamo affettuosamente per aver accettato il nostro invito. Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori. Grazie. Allora, quest'anno il vino come sarà? Perché si è sentito parlare poca pioggia, quindi ci sarà poca produzione, però qualitativamente è buono. Le caratteristiche di quest'anno, quali sono? I radioascoltatori vogliono sapere queste piccole informazioni. Abbiamo avuto un'annata un po' particolare. Nel periodo di marzo-aprile, diciamo, un'umidità eccessiva ha favorito lo sviluppo di alcuni funghi, la peronospora, dando praticamente avvio, specialmente nelle rodavola, a un tipo di peronospora definita larvata, che ha creato praticamente un certo danno, un po' ha diradato i grappoli che erano sulla vite, per cui la produzione un po' è diminuita. Per il resto, diciamo che la produzione è stata buona, perché l'andamento climatico, nonostante non sia piovuto parecchio, l'andamento climatico e le temperature, diciamo, piuttosto basse, relativamente basse in rapporto al periodo stagionale di luglio, hanno favorito una maturazione molto più equilibrata e un'espulsione termica, specialmente nelle zone più alte, che ha permesso la sintesi dei precursori di aromi di queste uve. Okay. Per cui quest'anno abbiamo una produzione di vino, anche se inferiore rispetto agli anni passati, qualitativamente molto buona. Quindi comunque rimaniamo sempre in cima alla produzione del vino nazionale, visto che la Sicilia risulta essere una delle regioni che produce maggiormente il vino, seguita soltanto dalla Puglia e dal Veneto. Dico bene, dottore? Sì, allora io direi che questo primato mano a mano lo stiamo perdendo, dovuto al fatto che in Sicilia come produzione di uva sì, siamo praticamente i primi, però con la messa in opera della vendemmia verde, che è una misura dell'OCM per l'aiuto agli agricoltori, molti agricoltori hanno scelto la vendemmia verde, per cui la quantità è diminuita drasticamente, unita anche all'abbandono di alcuni vigneti, mm-hmm. Specialmente di coltivatori che coltivano la vite per hobby o diciamo una coltivazione che è marginale nel, mm-hmm. nel loro reddito, i vigneti sono stati abbandonati in quanto il reddito non è più lo stesso, non giustifica più praticamente la coltivazione della vite. Per cui questo è il problema un po' di tutta l'agricoltura in generale, dottore Abate. Sì, nel senso che si abbandonano le terre perché la produzione non riesce a sopperire alle spese che ci sono realmente in agricoltura. Sì, infatti. Pertanto la produzione di uva quest'anno si è contratta parecchio. Ho capito. Dottore, un'altra domanda e poi la lascio alla sua giornata lavorativa, che è sicuramente abbastanza impegnata. Per quanto riguarda i vini, è sempre consigliabile bere il buon vino rosso perché è un antiossidante, perché aiuta l'organismo italiano, cioè l'organismo dell'uomo? Cosa dice lei, dottore? Allora, i vini rossi, sia rossi che bianchi, contengono delle sostanze che sono definite polifenoli. Mm-hmm. I rossi ne contengono parecchio di più, perché un vino rosso arriva fino a 2000-2300 mg per litro di polifenoli, mm-hmm. i quali sono chiaramente degli antiossidanti, per cui fanno bene un po' all'aspetto circolatorio, quindi anche nei confronti del colesterolo riescono ad abbassarlo un po', e quindi sono sicuramente favoriti i vini rossi, ma anche i vini bianchi di buona struttura hanno lo stesso effetto, anche se non come i vini rossi. In effetti il vino va bevuto perché deve essere un completamento del pasto, deve essere fuso armoniosamente col pasto, per cui se si abbina bene sia il rosso che il bianco fanno bene sicuramente alla salute, e nello stesso tempo si ha la soddisfazione di mangiare e bere con un grande piacere. Ho capito, ma rispetto sempre alla Francia, i nostri vini come sono messi a livello nazionale, generale e così via? Allora, i vini francesi comunque hanno una nomea diversa rispetto ai nostri, perché sono stati i primi a invadere tutti i mercati. Però devo dire che i vini siciliani rispetto a quelli francesi sono molto più pronti, e quindi da un punto di vista economico vengono messi in commercio prima rispetto a quelli francesi, per cui c'è anche un valore aggiunto. E direi che il nostro microclima non si può ripetere né in Francia né in nessun altro posto, diciamo, del nord Europa, per cui i nostri rimangono sempre vini che hanno un'apertura da un punto di vista organolettico, un ventaglio di profumi che è inimitabile e sono bevibili nel più breve tempo possibile. Ho capito. Quindi facendo un po' il riassunto di quello che stiamo dicendo, dobbiamo dire che il vino siciliano è sicuramente risultato di una produzione di qualità garantita negli anni, ecco. C'è stato comunque uno sviluppo di parecchie aziende che si sono comunque messe al passo con i tempi, ecco perché è venuta fuori la denominazione d'origine controllata e garantita, la denominazione d'origine controllata come il DOC, l'indicazione geografica tipica e così via, anche se la Sicilia presenta produzione di vini sia dolci che liquorosi, dico bene, dottore? Sì, senza dubbio. L'avvento della DOC e dell'OGC è stato comunque un motivo in più, una marcia in più per poter controllare le produzioni sia in campagna sia nella produzione in cantina, per cui danno al consumatore una garanzia diciamo molto più elevata rispetto ai vini normali. Adesso non si chiamano più vini da tavola, sono vini bianchi comuni, vini rossi comuni e rosati comuni. Ho capito. Allora, dottore Abate, io le volevo chiedere questo, quindi continuiamo a bere il vino tranquillamente, perché comunque fa bene, non in una maniera eccessiva, però fa bene al nostro organismo. Questo senza dubbio, togliendo l'alcol nel vino tutto quello che resta è qualcosa che fa bene all'organismo in tutti i sensi, al cuore, anche al funzionamento di alcune ghiandole a secrezione interna, quali il pancreas, il fegato e tutto quanto. L'alcol rappresenta una piccolissima parte del vino, quindi è una percentuale abbastanza bassa. Comunque. Molto bassa, tenga presente che un vino a 12 gradi ha solo il 12% di alcol, quindi in un litro di vino ci sono 12 centimetri cubici di alcol. Se una persona ne consuma un bicchiere a pranzo e un bicchiere a cena, è tutto di guadagnato. Certo, se si eccede, come tutte le altre sostanze alimentari, come tutto, mangiare, esatto, se dovesse mangiare molto pane, anche il pane farebbe male alla fine. Certo, certo. Va bene, dottore, senza patriottismi, se dovessimo dare un'indicazione, la zona della Sicilia dove è qualitativamente la produzione del vino è migliore, cosa potremmo dire? Allora, io le rispondo in maniera diversa, cioè i vini migliori sono in ogni zona in rapporto a come vengono prodotti, okay, alla zona di produzione, soprattutto il microclima. Mm-hmm. Per i bianchi è più facile poter avere vini praticamente migliori nelle zone collinari, dove ci sono delle grandi escursioni termiche. Mm-hmm. Per i rossi strutturati, insomma, nelle zone costiere, nelle zone del sud della Sicilia, ci sono dei rossi molto più strutturati rispetto a quelli del nord della Sicilia. Va bene, dottore Abbati, io la ringrazio della sua gentilezza e io spero di ritrovarla nel proseguo di questa di questo anno, anche perché alcune informazioni di carattere generale, magari se vogliamo entrare parlando maggiormente di alcune specialità di vino come il Carricante, il Catarrato, Catarrato così, sì. Potremmo, diciamo, approfondirne, dico bene, dottore? Sì, quando volete, sempre a vostra disposizione. Ok, io la ringrazio, le auguro buona vita e buona giornata e grazie nuovamente per la sua gentile collaborazione. Grazie a voi. La saluto, dottore. Arrivederci. Allora, noi continuiamo, poi avremo in diretta sempre telefonica il nostro caro poeta Michele Sardica che si sta preparando per delle belle novità. Avete segnato quegli appunti per quanto riguarda tutto quanto il vino e quindi continuiamo a bere vino con le giuste dosi e così ci farà bene alla salute. Buona continuazione con Slalom, adesso consigli commerciali e poi rientreremo in studio parlando di musica e ascoltando la bella poesia di Michele Sardica. Slalom, su e giù tra notizie curiose, idee e tanta musica. Giando tra curiosità, idee e buona musica. But she's always crying. I got no one to confide in. Aretha, nobody but you. And mama, she'd notice, but she's always fighting something in her mind. And it sounds like breaking glass. I got the blues in springtime. Slalom, su e giù tra notizie curiose, idee e tanta musica. Poesia è pensier che manifesta e stringe il vero non in simboli profondi, è fuoco sacro sull'altar di Vesta, luce di templi, sinfonia di mondi. Così era per Arturo. Buongiorno da Francesco Puglisi al nostro caro amico Michele Sarrica. Buongiorno Francesco, buongiorno a tutti i tuoi radioascoltatori. Grazie, come stai innanzitutto? Ma sto bene perché mi hai accolto con un pensiero bellissimo, non, come si fa a non risponderti con un altro pensiero altrettanto bello che non è mio? La poesia, tutta la poesia è un viaggio nell'ignoto, sai che lo diceva questo? Majakovskij, c'è uno che è passato l'altro giorno alla storia. Ma obiettivamente Michele, io volevo chiederti, non l'ho mai fatto, ma per te che cos'è la poesia? Ah, è l'arte di usare? Come? È l'arte di usare? Di usare o di usare? Di usare. Di usare. Sì, certo. È anche l'arte di usare, perché io uso la poesia per trasmettere un messaggio. Ma guarda, lì c'è un discorso molto ampio anche da fare, cioè io rinnego tutto ciò che si tratta di messalogia, diciamo così, se mi permetti il termine coniato estemporaneamente, te lo passo. No, io nella poesia è qualcosa di molto privato, cioè se noi dobbiamo andare a dare messaggi, cioè, ci sono già delle istituzioni ben precise, che non sto qui a dirtela perché le conosciamo, che sono nate con questo scopo di dare dei messaggi all'umanità. Mm-hmm. Il poeta, se poi c'è il messaggio, guarda, lo deve cogliere soltanto chi legge o chi ascolta. Ho capito. Tu ci trovi il messaggio, benissimo, ma la poesia è qualcosa di altro. La poesia, diciamoci, noi abbiamo detto due belle frasi poc'anzi, mm-hmm. ma la poesia è qualcosa che va oltre le nostre belle frasi. Perché definire la poesia tout court, così come dire, ecco, definiamo che cos'è quest'abito, definiamo Michele Sarrica e diciamo, definiamo Francesco Puglisi, beh, fa questo, fa quell'altro, ha fatto questo, ma molte cose rimangono celate. Penso un po' quante cose rimangono celate nella poesia, perché no, io nel mio studio qua tengo sempre presente molti pensieri dei poeti famosi del passato, anche dei pensatori. Dice per esempio Borges: ogni poesia è misteriosa, nessuno sa interamente ciò che gli è stato concesso di scrivere, cioè il poeta non sa nemmeno quello che scrive, poi il critico o l'ascoltatore o l'editore che va a sviscerare un po' i significanti di quello che, delle parole, di tutta la struttura. La poesia, secondo il mio punto di vista, questo un pensierino così nasce un po' estemporaneo, è come definire Dio. Noi sappiamo che Dio è il creatore, onnipotente, onniveggente. Ho capito. Vabbè, quindi è una cosa importante. Vabbè, quindi questo lo possiamo collegare anche al fatto del pensiero, di che cos'è il pensiero per un poeta quando scrive una poesia. Michele? Fare e di farmi dire delle corbellerie. Il pensiero, il pensiero... guarda, oggi sono andato a mare, la giornata non è tanto bella, sono ritornato perché avevo l'appuntamento con te, anche perché si è messo a piovere. E guardando il mare tu ti perdi chiaramente in questa vastità, io non soffro né di claustrofobia né di agorafobia, quindi mi piace. E tu pensi, ma definire poi il pensiero, questo meccanismo che a volte è inconscio chiaramente, no? Come si fa? Io non sono filosofo, sono un misero poeta così di provincia, dico io, che tenta di capire certi meccanismi, ma il pensiero è qualcosa che nasce nell'uomo, qualcosa di profondo, che lo ha fatto crescere, che chiaramente... Ma definire il pensiero non sono molto ferrato da questo punto di vista. Il pensiero comunque ci porta a fare qualcosa, ad agire, a pensare, a riflettere su quello che abbiamo fatto, su quello che vorremmo fare. E c'è un mondo misterioso, forse ancora non si è, visto che il cervello dell'uomo non è stato ancora studiato fin nei minimi dettagli, o quantomeno si conosce molto oggi, anche il pensiero è qualcosa di misterioso, forse fa parte anche di quella divinità di cui parlavamo poc'anzi, che risiede nella poesia, ma anche in Dio chiaramente. Ho capito. Allora, oggi ci delizierai con una tua bella poesia? Ma guarda, visto che abbiamo parlato di poesie e di pensiero, io così te ne do una memoria che mi ricordo, perché l'ho scritta tanti anni fa, pubblicata nell'83 nel mio primo libretto di poesie, che si intitola Scenografia di riflessi, e si intitola poesia proprio Pensiero, un omaggio alla nostra voglia di capire soprattutto. Ok, dopo la poesia io attaccherò con la musica, noi ci sentiremo comunque venerdì mattina sempre allo stesso orario. Più sarà sempre un piacere, comunque tanti saluti comunque soprattutto ai tuoi radioascoltatori. Ok, ti ringrazio. Un abbraccio. Vai Michele. Pensiero, beato te, pensiero, compagno assiduo del mio vagabondare, che non soffri le vertigini della solitudine. T'amo perché mi fai raggiungere che mi è tanto caro, e ti invidio perché tu sei libero mentre io sono prigioniero del mio mondo. Grazie e buona giornata. Slalom, viaggiando tra curiosità, idee e buona musica. Slalom, flashback. Slalom, flashback. got me so blind I can't see that she's a black magic woman. She's trying to make a devil out of me. Don't turn your back on her, baby. Don't turn your back on her, baby. Yes, don't turn your back on her, baby. Stop messing around with your tricks. Don't turn your back on her, baby. You just might pick up my magic sticks. Slalom, su e giù tra notizie curiose, idee e tanta musica. Giriamo attorno al mondo, lo facciamo con la musica. Abbiamo sentito Santana dopo aver ascoltato tanta buona pubblicità e soprattutto le notizie. I can't win, I can't rain, I will never. This game without you, without you, without you, without you, without you, without you. I am lost, I am vain, I will never be the same without you, without you. I 0921 92 32 92 335 56 37 251. Il nostro sito internet è www.crmhappyradio.it, all'interno del quale, come già detto stamattina, troverete l'icona della pagina Facebook che vi permetterà di interagire direttamente con noi, come stanno facendo tanti. Guardavo poc'anzi che sono circa 150 le persone online che stanno interagendo tra di loro. Avete fatto delle richieste, tra cui questa di Davide Guetta con Without You. Continuiamo a parlare con la musica, lo facciamo adesso con una delle canzoni che è in vetta alle classifiche di tutto il mondo. Lei è Emily Sandé con Heaven. Notizie strane che arrivano dagli States, io lo sostengo sempre perché lì è un vulcano, sia l'America che anche il Great Britain, l'Inghilterra, il Regno Unito, è veramente un vulcano di notizie strane, ma ne parliamo dopo aver sentito Emily Sandé con Heaven. You say that you will wait. I try but always break, 'cause the day always solitamente chi arriva in casa e trova un ladro, la prima cosa che fa è chiamare la polizia. Ma così non è successo in America, perché a chiamare la polizia, pensate un po', è stato il ladro che, curante del fatto che ancora non c'erano i proprietari, si è cominciato a fare la doccia. Chimbalaye, quando vejo sol beijando o mar. Chimbalaye, toda vez que ele vai repousar. Chimbalaye, quando vejo sol beijando o mar. Chimbalaye, toda vez que ele vai repousar. Natureza, deusa do viver, a beleza pura do nascer. Uma flor brilhando à luz do sol, pescador em mar e o anzol. Pensamento tão livre quanto o céu. Imagina um barco de papel indo embora pra não mais voltar, tendo como guia Iemanjá. Chimbalaye, quando vejo o sol beijando o mar. Chimbalaye, toda vez que ele vai repousar. Chimbalaye, quando vejo o sol beijando o mar. Pescador em mar e o anzol. Chimbalaye, quando vejo o sol beijando o mar. Chimbalaye, toda vez que ele vai repousar. Chimbalaye, quando vejo o sol beijando o mar. Chimbalaye, toda vez que ele vai repousar. Capitão desse mundo, poder rodar sem fronteiras, viver um ano em segundos, não achar sonhos besteira, me encantar com um livro que fale sobre vaidade, quando mentir for preciso, poder falar a verdade. Chimbalaye, quando vejo o sol beijando o mar. Chimbalaye, questo ladro, che è veramente di intelligenza ne avrà ben poca, si è ritrovato a farsi la doccia in una casa che stava rubando e che all'improvviso, quando lui è uscito dalla doccia, ha sentito i rumori del titolare, del proprietario della casa, più i cani che abbaiavano. Quindi la prima cosa che ha fatto, ha chiamato il 911. Su e giù tra notizie curiose, idee e tanta musica. Explode again, and we'll be larger. Slalom. Flashback. Questa canzone di Zucchero in coppia con Sandy Crawford è una delle più belle che lui ha prodotto, sia nella versione straniera che nella versione anche italiana, che abbiamo avuto modo di ascoltarla in questi giorni. Ancora musica. It's barely morning, cars are roaring, the city's moving fast. My mama's calling, but I'm stalling, living in the past. It's time to face the world in front of me and make the best of this reality. I'm gonna push my life today, push to make a better. I'm gonna push my life today, push to make a better way. ad essere sempre più convinto che le cose più strane arrivano veramente dall'America, e questa è una notizia che fa rabboccare la pelle. Un uomo chiama al 911 per dire: sto coltivando marijuana, quale crimine sto commettendo e cosa vado incontro? La polizia ha risposto: sicuramente va incontro a dei problemi, perché avere una coltivazione in casa è un reato. La persona che ha chiamato ha fatto attenzione a non rilasciare il proprio nome e cognome, ma sicuramente la polizia è stata semplice nel rintracciarlo, perché nel momento in cui ha chiuso, una pattuglia è arrivata a casa di questo personaggio ed è stato arrestato. I've been looking under rocks and breaking locks, just trying to find you. I've been like a maniac, insomniac, 5 steps behind you. Tell them all the girls they can hit the exit check, please, 'cause I finally found a girl of my dreams. Much more than a Grammy award, that's how much you mean to me. You could be my it girl, baby, you're the shit girl. Loving you could be a crime. Crazy how we fit, girl. This is it, girl, give me 25 to life. I just wanna rock on. You're my biggest hit, girl. Let me play it loud. Let me play it loud, like. Let me play it loud. Let me play it loud, like. Let me play it loud. You can't help but turn them heads, not get them dead. Dropping like flies around you. If I get your body close, not letting go. Hoping you're about to tell them other guys they could lose your number, you're done. They don't get another shot, 'cause you're love drunk. Like a TV show playing reruns. Every chance I get, I'ma turn you on. You could be my it girl, baby, you're the shit girl. Loving you could be a crime. Crazy how we fit, girl. This is it, girl, give me 25 to life. Hey, I just wanna ride all night long and put you in the middle of my spotlight. Hey, you could be my it girl, you're my biggest hit girl. Let me play it loud. Parlando ancora di ladri in America, è successa una cosa anche abbastanza insolita, anche abbastanza strana, ma del resto parliamo dell'Inghilterra, parliamo dell'America, parliamo della Germania, e le cose strane sono sempre abbastanza plausibili che possono succedere. Un altro ladro, poc'anzi parlavamo di un ladro che si è fatto la doccia, questo invece no, ha rubato un po' tutto quello che ha trovato, apparecchiature tecnologiche, quindi computer, iPad, nell'appartamento ha visto anche dei giubbotti, se li ha presi, ha preso un po' tutto. Però non contento di ciò, un paio di giorni successivi ha aperto il computer e con la webcam si è fatto una bella foto dove veniva ritratto con il bel giubbotto rubato praticamente in casa della famiglia che aveva portato via tutte quelle cose. È stato facilmente rintracciato e quindi poi arrestato. Ma cose dell'altro mondo. We'll be right back.

Allora, vi ricordo che siete sulla radio giusta, questa è CRM Happy Radio, direttamente da Cefalù, direttamente dalla cittadina più bella della provincia di Palermo, proprio a due porte, una cittadina normanna. Questa è Slalom, una trasmissione che potete seguire dalle 9.30 alle 13 ogni lunedì, mercoledì e venerdì. Abbiamo adesso prontissimo il nostro caro amico Alessandro Refice, che dalla sua postazione ci consiglierà praticamente la giusta preparazione per quanto riguarda oggi. Che cosa, Alessandro? Cosa ci prepari oggi? Innanzitutto buongiorno a tutti gli amici ascoltatori. Oggi andremo a preparare un piatto velocissimo realizzato con del pesce spada. Ovviamente di solito l'unico modo, quello più pratico, più veloce di andarlo a preparare, quindi a consumare, è di semplicemente panarlo un pochettino e metterlo sulla griglia o addirittura così al naturale ai ferri. Oggi andremo a fare invece delle deliziosissime polpettine di pesce spada. Vengono realizzate in modo molto pratico e veloce andando a macinare attraverso un robottino da cucina o addirittura, se c'è la possibilità, dal vostro pescivendolo di fiducia, del pesce spada all'incirca 400 grammi per preparare delle razioni sufficienti per 6 persone. Okay. Andremo a mettere praticamente in una terrina, quindi in uno stampo, questo pesce spada già precedentemente macinato e andremo ad addizionare 2 uova intere, una buona quantità di menta fresca assolutissimamente tritata, una scorza di arancia, praticamente prenderemo un'arancia attraverso una grattugia, andremo a macinare un pochettino all'interno di questa terrina questa scorza d'arancia che serve per esaltare il gusto del pesce spada, che unito al profumo della menta ricorderà sicuramente un momentino quelle che sono le materie prime basilari della nostra favolosissima Sicilia. Non appena avremo unificato questi prodotti andremo a condire con del sale e del pepe e un paio di cucchiai di parmigiano grattugiato. Amalgamiamo chiaramente il tutto, faremo delle palline, dei piccoli bocconcini che andremo a porre in una placca. Non necessariamente, l'idea della polpetta solitamente è quella di farla assolutamente fritta, invece non è così, perché le andiamo a mettere in una teglietta leggermente oleata, metteremo queste polpettine che passeremo in forno per appena 15 minuti alla temperatura di 180-190 gradi centigradi. Uscite ben calde, verranno servite su una salsetta che andremo a preparare con dei pomodorini appena saltati con dell'aglio, del sale e del peperoncino e dei pinoli precedentemente tostati che serviranno solamente per guarnire il piatto. Porremo tutto in questo piatto di portata, serviremo ben caldi e vi renderete conto che comunque attraverso una polpettina ci passeranno davanti tutti quelli che sono i nostri succulenti sapori, gli odori, i profumi della nostra amatissima Sicilia. Bene, allora noi ti ringraziamo e ti rinnoviamo l'appuntamento a venerdì prossimo con le tue ricette che ci fanno sempre sprigionare un bel po' di pranzo, un bel po' di desiderio subito a correre a casa per preparare questo pranzo. Ti ricordo che comunque tu sei all'antica focacceria di Palermo. Sì, quindi... ci troviamo all'antica focacceria di Palermo e praticamente, a parte questo, è uno, diciamo, dei nostri piatti di punta. Qui se ne consumano a migliaia e le prepariamo sia per quanto riguarda la somministrazione al ristorante che negli eventi, nei catering, insieme a quelle che sono le polpettine di sarde, che magari qualche giorno ancora qualcuno se le ricorda come si fanno, tanti altri l'hanno dimenticato, le mangiano solo al ristorante. Noi metteremo in condizione tutti i nostri ascoltatori, ma soprattutto le nostre amiche ascoltatrici, a tornare un'altra volta davanti ai fornelli e preparare quello che si preparava una volta e che guarniva le nostre tavole del sapore, del profumo tipico della Sicilia. Bene, ok Alessandro, ci sentiamo venerdì prossimo, stessa orario e stessa radio. Va bene, ciao, d'accordissimo, grazie, buona giornata, a tutti gli ascoltatori, buona giornata ad Alessandro Lepice. Ciao a tutti. Ciao Alessandro, ciao. Slalom, su e giù tra notizie curiose, idee e tanta musica. Smile. Slalom, su e giù tra notizie curiose, idee e tanta musica. Che questa mia canzone arrivi a te. Ti porterà dove niente, nessuno ascolterà. La canterò con poca voce, sussurrando te. E arriverà prima che tu ti addormenti. Se mi sognerai, dal cielo cadrò. E se domanderai, da qui risponderò. E se tristezza e vuoto avrai, da qui cancellerò. Sognami se nevica, sognami sotto nuvola. Sono vento e nostalgia, sono dove vai. Dovremmo fare una cosa: la mattina quando ci svegliamo dovremmo chiedere o una persona anziana che abbiamo a casa, che loro hanno quei dolori che sono tipici dei cambiamenti di tempo, oppure informarci con un campagnolo, con uno anziano che ha lavorato la terra e che sa più o meno le indicazioni, o meglio ancora, come se noi ci troviamo qua a Cefalù, e niente di più semplice trovare un pescatore che ci sia che ci dia le giuste indicazioni come andrà la giornata. Loro sono abbastanza più precisi per quanto riguarda le previsioni del tempo. Mi hanno dato pioggia, pioggia, pioggia, però ancora qui una goccia d'acqua non si vede. Viaggerò fino al mare, passando dal sole, tu mi vedrai. Vengo a prenderti. Quanto costa l'amore nel telegiornale, non crederci. Vengo a prenderti. Quanto basta un cuore per dirsi felice di vivere. Tu sorridimi, dammi 24 ore, ti vengo a cercare. Yeah. Giorgia con la canzone Il mio giorno migliore, sempre più affascinante che mai, questa quarantenne che ha partorito un piccolo bimbo che del nome che gli ha dato il nome Samuel. 0921 92 32 92 335 56 37 251, il nostro sito internet che è www.crmepiradio.it, all'interno del quale, come già detto e ma come già sapete, potete interagire con noi tramite il social network Facebook. Questa è una richiesta che è giunta proprio da lì, è una ragazza che si chiama Veronica e ci ha richiesto Irene Grandi con la canzone Bruci la città. Bruci la città e crolla il grattacielo, rimani tu da solo nudo sul mio letto. Bruci la città o viva nel terrore, nel giro di due ore svanisca tutto quanto, svanisca tutto il resto. E tutti quei ragazzi come te non hanno niente, come te io non posso che ammirare, non posso non gridare che ti stringo sul mio cuore per proteggerti dal mare. Questo tuo profondo. Bruci la città, la canzone che abbiamo sentito di Irene Grandi. Che bella questa canzone, richiestissima al nostro spazio Facebook dalla nostra cara amica Veronica, che salutiamo affettuosamente. Ci ha telefonato e ci ha fatto tante cose, ci ha detto tante cosine, ci ha scritto veramente delle cose deliziose proprio a due passi da Tusa, che salutiamo. Continuiamo ancora con la musica di casa nostra, con il Modà. Piangerai come pioggia, tu piangerai e te ne andrai come le foglie col vento d'autunno. Triste tu te ne andrai, certa che mai ti perdonerai, ma si sveglierà il tuo cuore in un giorno d'estate rovente in cui il sole sarà e cambierai la tristezza dei pianti in sorrisi lucenti, tu sorriderai. E arriverà il sapore. vita è ingiusta e piangerai e ripenserai alla volta in cui ti ho detto no, non ti lascerò mai. Poi di colpo il buio intorno a noi, ma si sveglierà il tuo cuore in un giorno d'estate rovente in cui il sole sarà e cambierai la tristezza dei pianti in sorrisi lucenti, tu sorriderai. Mangia italiano e vivi meglio, manifestazione che si svolgerà a Cefalù dal 28 ottobre al 1 di novembre e CRM sarà in diretta da Piazza Duomo dalle 19 alle 22 ogni sera, quindi dal 28 veniteci a trovare qui a Cefalù perché ci sarà questa bella manifestazione dove parleremo di tante cose, dove si incontreranno delle scolaresche, dove si parlerà sulle tematiche dell'educazione alimentare, ci sarà una mostra fotografica e ci saranno tante cose. Sarà l'occasione per rivedere Cefalù nel periodo di settembre, ma sarà anche, anzi nel periodo autunnale, ma sarà l'occasione per Slalom Flashback.